Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. Roma nuda, scusa se perdo lacrime di strada, mal che vada, fa finta che so gocce derugiada. La mia storia insegna che quando mi impegno in una vicenda, ancorché la più difficile, poi alla fine riesco a risolverla. Quindi se sto continuando e sto andando avanti come una ruspa, significa che sono convinto di riuscirci e riuscire anche a fare bene per questa città. Bertolaso, come una ruspa va davanti, hai capito? Adesso vuol fare il salviniano. La ruspa. Roma nuda. Quando Guido ed io andiamo all'Aquila, se veniamo portati in giro come la Madonna. Verremo portati in giro come la Madonna e il Bambin Gesù. Dobbiamo decidere chi fa la Madonna e chi fa il Bambin Gesù. Era una donna che m'ha rovinato. Sono stato accusato perché non avevo un programma. Il mio programma è nato tra la gente e non è nato in uno studio a Milano della Casaleggio Sociale. Bravo. E io risponderò ai romani e non risponderò alla Calabria. Roma nuda. Voglio farvi una promessa, questa sì. Se sarò eletto sindaco di Roma, convocherò in Campidoglio l'ambasciatore dell'India e gli dirò che se entro 10 giorni non tornano in Italia, chiudiamo tutti i ristoranti indiani in città. Perché al ricatto si risponde con la fierezza e con la dignità. Ma che vada, fa finta che so gocce derugiate. Beh, è bella questa corsa a sindaco di Roma, La corsa più pazza del mondo. Bella, bella. Meglio va a Napoli, dove... Ah, beh, c'è un video a Napoli di fanpage.it, tra poco sentiremo anche l'audio, dove c'è quello che dava un euro fuori dalle primarie, un euro per votare la Valente, un euro. Ma che ci fai con un euro? Manco un caffè a lungomare ti bevi. Roma nuda. Un euro, va, vota la femmina, la femmina, devi votare la femmina, la Valente. No bassolini, la femmina, vota la femmina. Vota la femmina. Un euro. Un euro. Devo subito convocare con immenso piacere il ritorno dello scrittore, scultore Mauro Corona. Buongiorno Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata. Devo dire anche alpino, giusto? Alpino. Sì, alpino. Ho fatto la naia negli alpini. La naia, bello sentire, non il militare, la naia. No, la naia. La naia. No, perché noi abbiamo l'alpino in regia, il nostro Peter Bescapè è alpino, Mi ha già convocato per Asti, quest'anno tutti ad Asti. Ma va a raduno degli alpini, Mauro Corona? No, guardi, no. Io sono fiero di aver fatto l'alpino, ho messo il cappello lì, sono un chiodo, ma basta. Mi è bastato, mi hanno sottratto 15 mesi della mia vita più un 40 giorni di galera scontati alla fine, 16 mesi ho dato. Le dico che se c'è da difendere la patria vado, ma basta divise o cappelli addosso. Questa della galera, non perché la galera? Perché dopo il 12° mese, se facevi il discolo, noi si rientrava tardi o sbronzi. prendevi 10 giorni di CPR, c'è la punizione rigore, li facevi dentro e poi li si scontavano a fine naia. A fine naia. Ma cosa ha fatto? È tornato sbronzo una volta? Ah sì, cioè, no, non solo, se andava fuori, non si tornava, non si rientrava allora. Mannaggia, allora, beh, insomma, la consegna! Vent'anni, arriva lì un tizio che non conosci, che mai non ha condiviso neanche, e ti dice mettiti sulla tenti, coglione. Ed io non ho mai sopportato le divise che mi dicono cosa fare. Mai. Alla naia è un po' difficile, insomma. Provo. Quanto di galera, diciamo, quanto? 40 giorni. Beh, sì, cioè, sì. Ah, 40 giorni, cioè di insomma di fermo, insomma, no? Tutti... No, li fai di giorno, si sta dentro nella cella. La sera permettono, robe ancora proprio medievali, di prenderti le coperte e un cuscino, altrimenti di giorno sei sul tavolaccio di legno. In cella. In cella dentro come? La caserma. Porca miseria. Questo non la sapevo, questo lato. Questa è una delle cose, pur non essendo assolutamente berlusconiano, che mi viene la pelle, è una delle cose che devo riconoscere a Berlusconi. Ha fatto la naia facoltativa. Chi vuol fare la naia stia pure lì. Sì. Donne, uomini, bambini, vecchi. Io no, è già la seconda cosa che riconosce Berlusconi da quando è qui a Radio 24. Ma bisogna riconoscere, no. Se c'è qualcosa di buono, diceva Borges a 85 anni, riconosco che c'è del male in me e del buono negli altri. E quindi insomma lo riconosce. Allora, insieme a Mauro Corona, qui Mauro Corona, l'ultima volta apriamo il Parlamento, perché l'ultima volta che è stato con noi, no, la penultima, c'era Mario Adinolfi. Sa che fine ha fatto Mario Adinolfi? No, guardi, si candida sindaco a Roma. Come no? Ancora anche lui. Beh, guardi, anche lui, guardi, a me non piace proprio esteticamente, ma anche in gamba, però preferisco Adinolfi che Bertolaso. Ecco. Guardi che ce ne vuole, Vabbè, insomma, quindi un mezzo voto se Corona fosse a Roma, però in realtà non voto. No, però siccome nel frattempo Adinolfi si è candidato a sindaco col partito, il popolo della famiglia, qui abbiamo un altro candidato sindaco che è l'avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno. E ieri ha fatto una straordinaria intervista sul Libero, non per le domande ovviamente, ma per le risposte fatta da me medesimo sul Libero. Si candida. Bella, bravo. Grazie. Uno strapuntino, non l'ho scelta io la foto, quella, ma uno strapuntino me lo merito per questa intervista. Se diventa sindaco, no? Sì, non stavo a dire, no. Io vorrei dare invece una buona notizia ai romani, perché abbiamo scoperto che c'è tutta un'area dove sta la magistratura, l'altra procura della Repubblica, eccetera, sì. Dove siamo ai limiti e superiamo i limiti delle onde elettromagnetiche pericolose. E il Ministero dell'Ambiente, siccome abbiamo fatto le misure, ha ordinato al Comune di andare a fare le misure, e forse anche la RAI dovrà abbassare il suo segnale e tutti gli altri, perché è una situazione molto a rischio, purtroppo, soprattutto per i bambini, perché se sono vicini più di 100 metri alle antenne dei cellulari o ad altre emittenti, quindi anche in casa attenzione, spegnete il wifi, non tenete acceso troppo il fornere, tenete accesa la radio, questa sì, almeno la radio fa benissimo. La di 24 si salva, però si è una salva, notizia positiva, sì. Si va a controllare. Va bene. E si va a controllare. Oggi questa è la battaglia del Codacons. Caro Mauro Corona, anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons Consumatori, si candida sindaco a Roma. Rienzi, ogni tanto lo vedo nei suoi interventi a difesa dei consumatori. Mi piace molto, vabbè. Ma non lo dico perché è lì. No, è chiaro. Comunque sul sito c'è il sondaggio, sul nostro sito. Sul sito c'è il sondaggio, cioè che cosa pensate che abbia fatto in questi 5 anni, che ne so, Giachetti, Bertolaso, Martini. Dovete dire una cosa fatta negli ultimi per Roma. Raggi, da Giachetti, E dal Codacons? Vogliamo vedere che cosa rispondono. Vabbè, vediamo cosa rispondono. Comunque, oh, questa storia è incredibile. A Napoli, adesso, per carità, non dobbiamo dire che va tutto invalidato, eccetera. Però Mauro Corona, ma gente che vota per un euro! Ma per un euro! Hanno battuto anche Giuda, che almeno lui ne prese 30. Infatti, ma un euro, ragazzi, ma con un euro... I denari però valevano molto di più. Valevano di più, 30 denari erano un bel tesoretto. Un bel tesoretto. Ci ha rovinato. Ma Corona per un euro venderebbe mai il voto? Cioè, no, neanche per un milione forse. Ma... No, ma guarda, io credo di essere uno degli ultimi... etici, forse sbagliando anche mi piglierebbero anche in giro, ma non mi venderei per nulla. No. Però poi, disoccupato. Poi dipende dalla cifra, forse. Sì. Dipende dalla cifra perché... Cosa fai con un euro? Niente, fai? Neanche il caffè non bevi. Vendere un voto per un euro mi sembra proprio una roba anche... Non è una vendita, cioè, quello passa il domenica il disoccupato, non c'è niente da fare, non ci pensa proprio ad andare a votare. Invece quello dice, senti, via gli euro, ti fa il caffè, va a votare un attimo, quello lo prende e va a votare. Cioè, avete una mentalità signorile, troppo. Cioè, è una mentalità come dire, vieni qua, dai, ti do un euro, quasi... Invece la gente fa anche queste cose per un euro, non pensa che sia una cattiveria, non è stato un problema di... Dice, no, c'è stato il fastidio, piglia qua la moneta, metti un caffè, prenditi il caffè. Sì. Ah no, giustamente mi dice Lorenzo Nespoli, no, perché costava un euro votare, sì, no, capito? Sì. Quindi c'è questa cosa, proprio cioè vieni a votare e ti pago l'euro per votare. Questo è più brutto, sì. È ancora più Corona, è ancora più triste questa cosa. Cioè, proprio... Sì, infatti c'è gente che con un euro non ce l'ha, magari, vabbè, tieni qua, te lo do io, vai a votare. Comunque vediamo come va. Vediamo poi alla fine. No, chiaro, questo sì. Ma c'è la fiducia ancora nella politica, Corona? Cioè... No, non c'è. No. Guardi, le dico, la politica, ma mi impressionano che hanno ancora la speranza o l'illusione che la gente si fidi. È totalmente, e mi meraviglio che vanno ancora a votare, si andrà sempre meno a votare. Proprio c'è una totale sfiducia, totale verso la politica. Però ci sono questi affezionati che sono abbastanza ancora, sì, che insistono e non vogliono retrocedere, non vogliono smettere di votare, ma io sento orecchio, ascolto e c'è la sfiducia. Ma cosa pensa che migliori Roma? Io vorrei vedere fra 5 anni, ci troviamo qui se sono ancora vivo, con la radio, la vostra radio, sì, vediamo cos'è cambiato i prossimi 5 anni. Per Roma. No. È impossibile gestire le città oggi, non è che siano degli incapaci, è impossibile. Ho capito, ma è impossibile, allora che facciamo? Cioè, l'anarchia, ognuno fa quello che vuole, l'anarchia. L'anarchia, viva l'anarchia, bello, l'inno dell'anarchia sulla radio di Confindustria, è bella questa cosa, Mauro Corona, è bellissima. No, vada avanti, cioè cosa vuol dire l'anarchia? E quindi che bisognerebbe fare? No, era una battuta ovviamente. No, io ci credevo per un attimo. Bisognerebbe, secondo me, ma io non conto ben poco, chiedere alla gente di cosa avete bisogno. La gente sa, e la gente il respiro della città. E dicono, la maggioranza dice, abbiamo bisogno di questo, a noi serve questo, non so. Non è che, certo, il problema delle buche è un problema, ma non sarà mica quello il problema di Roma. No, diciamola a Rienzi che invece le buche è uno dei problemi per Rienzi. È vero che è una cosa complicata, governare una città come Roma, quindi adesso pure la nostra avventura è molto drammatica. Infatti, diciamo, Rienzi si è candidato così, dice, prima cosa voglio fare fallire il comune di Roma, cioè fallire. Oggi notifichiamo questa istanza a Raffano per, non è fallimento, è, diciamo, la dichiarazione di dissesto, perché ha troppi debiti. Però il problema è anche le cose concrete si sanno, cioè ogni romano ha mezzo gabbiano, 2 topi e 3 buchi a testa, no? Cioè, questo è un po' il patrimonio del romano, no? Invece del debito pubblico italiano, ogni romano c'ha un gabbiano sulla spalla, 3 topi sulla schiena. Mezzo gabbiano. 2 topi e 3 buche a testa. Allora, almeno questo patrimonio bisogna riuscire a eliminarle, non ci vuole poi tanto, perché i fondi ci sono, ci sono. Vuole un po' di decisione, Perché c'è i gabbiani, ci sono dei meccanismi, ci sono dei modi per farlo. Per i topi basta fare ogni mese una disinfestazione nelle zone più a rischio. Assumete nelle gatti. Buche basta mettere qualcuno che controlla che dentro le buche non ci mettono la sabbia invece del bitume. E invece i controlli nel nostro paese sono spariti, grazie anche ai sindacati, devo dire, mi tirerò addosso. Ha detto una delle cose, ripristinerebbe i controlli degli spazzini, cioè un ispettore che va lì a dire tu stai pulendo la strada, ma mi sembra delle cose civili. Però, per dire quanto è difficile amministrare, caro Mauro Corona, gira sul web questa foto, tra Cortina e Dobbiaco c'è una strada, metà è in Veneto e metà è in Trentino Alto Adige. No? Proprio questa strada che attraversa tra Veneto e Trentino. A un certo punto, da dove c'è il confine, c'è questa foto straordinaria, dalla parte del Trentino la strada è pulita dalla neve. Appena inizia il Veneto c'è tutta la neve sulla strada, perché quelli che hanno pulito fino alla riga del confine del Trentino, no? E gli hanno detto, voi del Veneto vi tenete la strada un metro più avanti con la neve. Cioè, questo è, siamo l'Italia dei mille campanili, delle mille... No, assolutamente, ma io vedo nelle mie zone che i paesini, invece che fare un comune unico, si fanno le guerre come i capponi di Renzo Lucia, stanno andando al macello, c'è da portare una gerla al BIT di Milano, portiamo una gerla, invece non la portano perché la mia è migliore, no, è la mia migliore. È chiaro. E quindi si va, se portate una gerla di Innsbruck e diciamo che è nostra intanto. Comunque c'è un problema di autonomia regionale, cioè quelli non possono andare a spendere i soldi nell'altra regione. Ho capito, ma questo per dire, se c'è una strada, figurarsi governare una città come Roma, questo, se in una strada, come dire, che attraversa due regioni, due circoscrizioni, succede una cosa del genere. Comunque devo andare alle informazioni sul traffico, poi siccome è l'8 marzo e però Mauro Corona sappiamo che è sempre urticante in alcuni suoi giudizi, vorrò sapere tra un minuto il giudizio di Mauro Corona su questa festa delle donne, il suo rapporto con le donne, tra poco. Milan, o traffico, o te cosa tentacolare. Ma che pensi adesso di questo citrullo? Con me in Libia non ci si va, presidente. Ma manco sei stato eletto dal popolo, ma buttati nel posto. Ciao Milan. Dai, fai uno sforzo stamattina, sento che sei arrabbiato, e toglieteli quei due sassuolini dalle scarpe. Ciao Milan! Adinolfi si candida col PDF, il popolo della Fibi! Buongiorno dottor Milan, la saluto dalla città dei topi, Roma! Ciao! Alino, la metropolitana... I mezzi pubblici, la bicicletta, il taxi, lascia stare. Ti fai fare lo studio a casa e quando arriva Giannino al mattino gli offri un caffettino e vai! Vabbè, ieri mi sono lamentato perché prendo le multe sotto casa e la gente mi faceva le proposte più strane. E la migliore è questa, forse, farmi lo studio a casa. Radio Porto, Radio 24 a casa. No, siamo con Carlo Rienzi, che ricordo candidato sindaco di Roma con il Codacons, e con Mauro Corona. Mauro Corona, oggi è l'8 marzo. Sì. Sì, è l'8 marzo. È il compleanno di un mio amico di scuola. Vabbè, un compleanno di un amico di scuola di Carlo Rienzi, gli facciamo tanti auguri. Enrico, tanti auguri. Enrico, un abbraccio, un abbraccione. Tanti auguri, caro Enrico. Grazie. Caro Mauro, che senso ha questa festa per lei? Ma voglio esordire con una battuta: metti un 8 marzo al giorno e levi il maschio di torno. Perché non contiamo più niente. Ma questa no, era una mi, volta mi, su da, mi esagerare. Penso che sia nata questo giorno per in America, in pare a New York, che bruciarono non so quante donne che l'incendio di una fabbrica che avevano chiuso le porte, no? Sì. Mi pare nacque così l'8 marzo. Ma non mi dispiace che però sembra che una volta all'anno, l'8 marzo, si decida che c'è la donna, ci si accorga e si dà questo giorno a lei. L'8 marzo dovrebbe essere di rispetto, tutti i giorni per la donna, il rispetto, la parità dei diritti, invece c'è il rischio di dire, siccome si fa un giorno, poi per il resto ce lo dimentichiamo, ci mettiamo la coscienza a posto. Poi vedo anche delle scene come che queste a volte si riuniscono, almeno nei paesi di montagna, vedo queste scene che sembrano una rivolta, finalmente oggi ve la faremo pagare. Non mi sembra questo l'atteggiamento. Ci vuole un'educazione fin da prima. Guardi, come fa un bambino a crescere a modo, a crescere dritto, quando sente il papà che dice alla mamma: tu stai zitta, non devi parlare, sennò ti do un ceffone. Un bambino di 4-5 anni, ecco dov'è l'8 marzo. Educare, insegnare. Beh, questo è giusto. No, mi sembra giusto, cioè 8 marzo dovrebbe essere tutti i giorni, no, Rienzi? Questa è una buona cosa. Ma non è più come una volta. Adesso le femministe stesse, quelle che sono rimaste, che sono poche, non apprezzano più questa festa così ghetto. Quindi, e poi il problema è abbastanza risolto. Cioè, anche questo 40% che le quote rosa è un po' una follia. No, cioè, è una cosa ridicola. Ma non è per le stesse donne. I discorsi poi alla fine tramontano. Adesso sta festa, non lo so, secondo me finirebbe trasformarla. Che ne so, le donne stesse dovrebbero farsi venire una bella idea e tipo dire l'8 marzo non è più la festa delle donne, ma la festa di tutti insieme, dove che ne so, la donna viene venerata dall'uomo. No, venerata dall'uomo, addirittura venerata apprezzata. Vabbè, insomma. Mettiamoci qualche cosa, basta questo storia dell'8 marzo, è obsoleto. Carlo Rienzi faccia una causa per abolire anche l'8 marzo. Facciamo un esposto all'antitrust. Esagerato per vantaggio. Fa l'esposto su tutto. Però allora Mauro Corona, siccome abbiamo iniziato raccontando il fatto che quando ha fatto la naia è finita anche in galera, allora c'è questa storia della Libia, armiamoci e partite, forse, no, c'è questa storia che forse finiamo ancora in guerra in Libia o finiamo per fare qualcosa con la Libia, lì d'altronde a pochi chilometri dalle coste italiane c'è, pare, lo Stato Islamico. Dovremmo fare qualcosa, no, Corona? Oppure non... Ma guardi, qui io sono sempre stato contro l'idea di andare a combattere, di fare la guerra. Questo adesso io non lo so se è necessità. Non la vedo una cosa buona andare in Libia a difendere che, a difendere chi. Bisogna andare in tutto il pianeta, allora, perché le guerre ci sono, ma la guerra siamo noi, lo diceva parafrasando De Gregori, che dice la storia siamo noi in una canzone. La guerra siamo noi, cioè noi non tagliamo teste, ovviamente non spariamo coi Kalashnikov, ma basta che il gatto del vicino attraversi il nostro cortile, gli facciamo fuori il gatto. A un semaforo ti fermi un po' di più, sei bombardato, si ammazzano per un parcheggio. La guerra siamo noi tutti i giorni. Però visto che ha detto difenderebbe la patria, non la difenderebbe? Se arrivano degli eserciti in Italia e invadono, certo e ho anche le armi. C'è anche le armi, certo. Mia madre mi ha lasciato una montagna di libri, mio padre mi ha lasciato fucili da caccia. Ma funzionano ancora? Funzionano, sì, io ho il porto d'armi regolare, cioè i fucili di mio padre li ho tenuti per ricordo, ma anche per quella saggia regola del non si sa mai. Non si sa mai, giusto, non si sa mai. Arrivano quelli dell'ISIS, non si sa mai. Questa mi sembra la chiosa giusta. Rienzi, c'è qualcosa da dire? No, non si sa mai. No, tengo... La Libia è un bottino da 130 miliardi di dollari. Eccola. Cioè, quindi parliamoci chiaro, perché andiamo a aiutare in Libia. Cioè, allora, gli americani, adesso anche i russi. Cioè, se le finisce la guerra e la Libia vende il petrolio invece delle società internazionali, compagnie internazionali, la Libia potrebbe stare benissimo, meglio della Svezia. E quindi c'è semplicemente una caccia al petrolio, al bottino, al bottino. Dove tutti i paesi vanno a caccia. No, invece metterci a sostenere un cacciatore piuttosto che l'altro. No, questo sì. Allora, ringrazio Carlo Rienzi, ringrazio Mauro Corona, che ha le armi, perché il motto è quello: non si sa mai. Le tengo qui pronte. Dai, alla prossima, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza cari italiani, eccoci qui, cari amici anche stranieri, cari amici da tutto il mondo che ci ascoltate in diretta live da varie parti del mondo, vari continenti, ci scrivono dall'Australia, ci scrivono da Hong Kong, ci scrivono da ovunque. Oh, non scriveteci per il momento su WhatsApp perché ce l'abbiamo bloccato. I potenti mezzi di Radio 24, la sessione è scaduta ieri. Oggi per la festa delle donne dobbiamo riaggiornare. Comunque, per il momento WhatsApp solo da noi, no, voi scrivete pure le vostre amanti e i vostri amici di nascosto, di soppiatto, funziona benissimo WhatsApp. A noi no, per il momento. Quindi, oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Oggi non lo so, caro ascoltatore, ma quando i prodi tecnici arriveranno a sistemare, certo non svegliandosi alle 5 come noi, la situazione, poi sarà tutto a posto a partire dalle 9, alle 9 e mezza circa, quando noi abbiamo finito. Va bene, dai, andiamo a leggere i giornali. È martedì 8 marzo e allora le aperture, il sole 24 ore, il petrolio sopra i $40, Piazza Affari perde l'1,2%, questa è l'apertura del sole 24 ore. Mentre la questione dei profughi è l'apertura per molti quotidiani, profughi, il prezzo di Ankara, la Turchia chiede più soldi e garanzie politiche, così apre il Corriere della Sera. Mentre Repubblica, Unione Europea, la Turchia alza il prezzo, è lite sulla libertà di stampa. Il Messaggero, debito e migranti, l'Italia in trincea, perché oltre ai migranti c'è l'Europa che sempre ci guarda un po' con l'occhio storto sui conti. La Stampa invece, la Turchia tiene in scacco l'Unione Europea. Per il Giornale, soldi a fine mese, basta segreti, il fisco entra in banche e carte di credito. Questo è il titolo un po' inquietante del Giornale. Mentre l'Unità al gran bazar dei migranti, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, primarie comprate e truccate, a Roma contano pure le schede bianche, a Napoli offrono soldi per votare, sono le primarie del centro-sinistra. Libero invece ha un'anticipazione del nuovo libro di Mario Giordano, Profugopoli, diamo ancora i nostri soldi alle COP di Mafia Capitale e tra poco lo vedremo, ma io voglio partire da questo delitto feroce che certamente ha sconvolto Roma e che devo dire finisce con dei particolari raccapriccianti su tutti i giornali, la vicenda dell'uccisione da parte di Manuel Foffo e Marco Prato, che hanno confessato, del giovane Luca Varani, un omicidio che certamente è anche dovuto all'abuso di cocaina, all'abuso di alcol. Quello che colpisce di questo delitto è il verbale che Repubblica mette a pagina, inizia a pagina 1, poi pagina 18 e 19, è la confessione di Manuel Foffo, 30 anni, che insieme appunto a Marco Prato ha ammesso di avere ucciso Luca Varani. Intanto il motivo non c'è. Il motivo è: volevamo vedere l'effetto che fa. Non è la canzone di Iannacci, questo è un dramma vero. Abbiamo ucciso questa persona per vedere l'effetto che fa, uccidere una persona. Questo testuale, messo a verbale davanti ai magistrati. Racconta, e Federica Angeli, Francesco Salvatore sono gli autori di questo articolo su Repubblica, racconta intanto la giornata con l'amico all'insegna della cocaina, dell'alcol. Poi a un certo punto, siamo usciti di casa perché volevamo fare del male a una persona qualsiasi. E mentre giravamo in macchina non abbiamo portato a termine la nostra intenzione. in quanto non abbiamo trovato nessuno. Lo avremmo forse fatto se avessimo trovato qualcuno. Anche in passato avevo avuto un momento in cui volevo far del male a una persona. Non so come questo maturasse tra me e me, ma non ho mai pensato potesse concretizzarsi. Poi tornano a casa e chiamano Luca Varani. Secondo alcuni gli chiedono una prestazione sessuale in cambio di 100 euro. Luca Varani arriva, inizia a denudarsi. È stato come un raptus. Ci siamo intesi, io e il mio amico Marco. Marco l'ha aggredito, io ho recuperato il martello che abbiamo usato. Forse sono stato io a trovare anche i due coltelli. Non ricordo da dove sia uscita la corda. Non è mai riuscito a resistere alle nostre violenze. Posso precisare che non ha mai gridato. E poi sentite cosa dice: mentre lo colpivamo non provavo piacere perché non ero in grado di fermarmi, anche se ho avuto dei momenti in cui provavo vergogna per quello che facevo. Lo abbiamo davvero torturato per un'intera notte e poi ucciso con un coltello, una coltellata al cuore. Ma ripeto, i particolari sono incredibili. Comunque il titolo e la frase che sciocca, perché non esiste un movente, è proprio questo: ucciso per vedere l'effetto che fa. Provavo vergogna, ma non mi fermavo. Di fronte a un insondabile crimine di questo genere, anche gli altri giornali, volevamo provare a uccidere, è il titolo che più suscita stupore. Tra l'altro Erika Della Pasqua per il Corriere della Sera, pagina 19, intervista il padre di Foffo, Walter Foffo, che dice: mio figlio accecato da quella strana droga, ma se è un mostro deve pagare il suo debito. E voglio credere, dice questo padre, anche lui, bisogna dire evidentemente distrutto, anzi tre famiglie distrutte, ovviamente in primo piano quella della vittima, ma anche di vedere due ragazzi che si sono comportati così, sicuramente distrutte anche le famiglie di questi due assassini. E dice il padre di uno di questi due: voglio credere che sia stata la droga a mandarlo fuori di testa, altrimenti cosa dovrei pensare, di aver generato un mostro? E poi racconta di come gliel'ha confessato il figlio quando erano ai funerali dello zio. L'ha visto, gli ha detto: mai bevuto, sei strano. No, ho preso cocaina. Ma ti rendi conto come sei sceso in basso, gli ho detto. E lui: papà, sono sceso molto più in basso, ho ammazzato, anzi abbiamo ammazzato una persona. E da qui la confessione. Oh, guardate, è talmente agghiacciante questo racconto e questi racconti che per contrasto vi devo dare una buona notizia. Vi devo dare una buona notizia e l'ho trovata, perché mi sento in dovere in qualche modo di compensare queste righe agghiaccianti con la storia, la bella storia invece che la stampa pubblica in prima pagina, ed è una storia di Francesca Fossati, è la storia della dottoressa che cura cantando. È la storia di una dottoressa che 16 anni fa era rimasta bloccata in un letto d'ospedale per una grave malattia. Per 3 mesi è riuscita solo ad ascoltare musica e poi, tra cure, sedute di fisioterapia, è stato il canto a ridarle la vita. E oggi Paola Matera, medico dell'ospedale degli infermi di Biella, canta per i suoi pazienti, contribuendo così ad alleviare il loro dolore. Beh, deve avere una bellissima voce, insomma è un medico del pronto soccorso, ogni giorno davanti a sé decine di pazienti che soffrono, sperano, sa esattamente cosa significa curare e dopo la sua malattia sa anche cosa vuol dire essere curata, ma sa anche quanto sia importante affiancare alla medicina la terapia dell'anima. E allora dice: ho scoperto la voce quando ero malata, mi ha aiutato a conferire un assetto stabile alla mia postura, a dare intensità ai miei respiri e oggi canto ai miei malati, ai pazienti che sono lì in ospedale. La voce è terapia e la dottoressa canta al pronto soccorso. E vabbè, dice: i pazienti tante volte cantano con me, mi vengono dietro e stanno meglio così. Insomma, mi sembra, e la stampa mette questa storia insieme a quella della clown terapia, no? L'importanza anche di far riscoprire l'umorismo soprattutto ai bambini, oppure la pet therapy, l'uso degli animali anche domestici, sempre più diffuso negli ospedali. Va bene, in mezzo a questa bella storia c'è un grave dramma invece per i nostri deputati. Grave dramma, gravissimo dramma, alla Buvette, il bar. il bar di Montecitorio, la Buvette, dove rincarano gli aperitivi da 4 euro a 4,50 euro. È rincarato anche il caffè, che è salito a 90 centesimi. Con un caffè non si compra neanche un voto alle primarie a Napoli, alla Buvette. 90 centesimi, manca quel zic, quei 10 centesimi. E allora, che succede? Però c'è una vera, grave notizia. Filippo Ceccarelli dedica una pagina di Repubblica a questo, il tema è grave. Soprattutto niente più mandorlette gratis. I deputati alla Buvette non possono più accedere al beneficio della mandorletta, che è descritta da Filippo Ceccarelli come uno dei simboli della prima, della seconda Repubblica. Le mandorlette della Buvette di Montecitorio, lesinate agli onorevoli perché troppo costose, assurte ennesimo emblema dello scrocco parlamentare, dato che i deputati se ne approfittavano pretendendone in gran quantità, anche con un bicchiere d'acqua e limone. Mi dia un bicchiere d'acqua e limone e una manciatona di mandorlette. No, basta, mandorlette vietate a tutti. Questo alla Buvette di Montecitorio, cioè al bar. Ma eccoci qui al premio Mani sul Volante, il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Oggi vince Giuseppe Lobianco, siamo sul Fatto Quotidiano, pagina 13, la storia del consigliere comunale Calogero Lillo Giambalvo. Ce ne siamo occupati anche in passato, cioè, o meglio, i giornali lo raccontavano già in passato la sua storia. C'è stato anche un straordinario servizio delle Iene domenica, che raccontava con Filippo Roma la storia di questo consigliere che in passato è stato intercettato dicendo di Matteo Messina Denaro, siamo a Castelvetrano, Trapani, il grande latitante di mafia: se io dovessi rischiare 30 anni di galera per nasconderlo, rischierei. Raccontava in un'intercettazione anche di averlo incontrato. E dichiarò in un'altra intercettazione di augurarsi la morte del figlio di un pentito. Per la verità è stato assolto. Lui ha detto: non sono intercettazioni, sono, come dire, frasi interpretabili in modo diverso, ed è rientrato in consiglio comunale in quanto assolto. Ora c'è stata una manovra anche per chiedergli di dimettersi. Le Iene sono andate da Angelino Alfano a dire: lei è ministro dell'interno, lo faccia decadere. Angelino Alfano dice: merita di essere espulso, ma non c'è nulla da fare, è stato assolto. Insomma, il fan del boss non molla il comune. Pensate che perfino gli altri consiglieri comunali, 15 consiglieri di maggioranza e opposizione, hanno firmato un documento in cui si autosospendono dall'attività del consiglio per cercare di farlo decadere, convincerlo, dopo quelle frasi su Matteo Messina Denaro, ad andarsene. Ma Calogero Giambalvo dice: più mi pressano, più tengo duro. E il fan del boss non molla il posto in comune. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, lei quel personaggio che te lese gratis i giornali tutte le mattine e che il porco cane te fa tenere le mani sul volante tanto che ti fa arrabbiare, guarda. Tutto a posto, però gratis no, cioè, anzi vorrei essere pagato, anzi lautamente, potrei fare una colletta oltre allo stipendio, chiedere a voi cari ascoltatori, chi se la sente, di mandarmi un eurino, 50 centesimi, vi compro mezzo voto a una primaria qualsiasi, 50 centesimi, un euro, un voto pieno. Ecco. Però allora, diciamo che andiamo con ordine, alle primarie ci arriveremo e alle polemiche annesse. Prima, l'Unione Europea alle prese con la questione migranti, con la questione profughi. Beda Romano racconta quel che è successo ieri al Consiglio Europeo, dove doveva essere un vertice piuttosto rapido, tutto dedicato a rilanciare il piano di azione con la Turchia per arginare gli arrivi di migranti dal Vicino Oriente. Ma che ti fa Ankara? Che ti fa la Turchia? Si è presentata dicendo: sapete che c'è? Invece che 3 miliardi ce ne servono il doppio. il doppio, capito? Il prezzo dei migranti. Su questo c'è da dire che il titolo dell'Unità non è male, è il gran bazar dei migranti, no? La Turchia chiede il doppio di soldi. E il primo ministro turco, Davutoglu, racconta Beda Romano, è giunto a Bruxelles in questo incontro di 12 ore con una nuova richiesta, prima di tutto economica, 3 miliardi in più da qui al 2018, in aggiunta ai 3 miliardi già decisi alla fine dell'anno scorso. In cambio, la Turchia si dice pronta a raccogliere dalla Grecia non solo i migranti economici, ma anche i potenziali rifugiati. E qui che succede? Succede che, come scrive Andrea Bonanni su Repubblica, insomma, non è stato un bello spettacolo quello offerto ieri dai leader europei, divisi e indecisi a tutto di fronte a questo turco in Europa che, come il turco in Italia di Rossini, spadroneggia a tutto campo, sicuro della propria impunità. Qui il Corriere della Sera dà un ruolo quasi agiograficamente straordinario al nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Secondo Marco Galluzzo è stato lui a dire no, voglio un riferimento alla libertà di stampa in Turchia, se no non firmo, pagina 3 del Corriere. Questa la minaccia di veto che Renzi esprime durante la cena dei 28 paesi. Se la Turchia vuole fondi aggiuntivi, addirittura raddoppiati, tocca all'Italia mostrare la faccia cattiva e respingere quello che appare a giudizio di tutti una sorta di ricatto politico. Per una volta, scrive ancora Galluzzo, Italia e Germania sono in stretta sintonia, la pensano allo stesso modo sulla necessità di chiudere in modo definitivo un accordo con Ankara. Ma rimane, insomma, questo ricatto dalla Turchia, o comunque, insomma, mettetela come volete, certo dicono accogliamone di più e quindi ci servono più soldi, però fa un po' specie vedere questa Europa totalmente spaccata e divisa su questa questione irrisolta e dire ci servono più soldi. In tutto questo, oggi su Libero c'è uno stralcio anche di Profugopoli, che è il nuovo libro di Mario Giordano. Probabilmente lo chiameremo anche noi uno di questi giorni per raccontare come c'è anche un vero e proprio business sui migranti, sulla pelle dei migranti, in Italia intanto. Per esempio questo titolo, diamo ancora i soldi alle coop di Mafia Capitale. Scrive Mario Giordano, il 16 febbraio scorso a Treviso si è svolta la gara per aggiudicare la gestione di 1.428 immigrati nel 2016, appalto di 18 milioni di euro. La torta se la spartiranno 6 cooperative, tra queste la Domus Caritatis. Qualcuno l'ha già sentita nominare? Ma certo, è la stessa Domus Caritatis coinvolta nell'inchiesta di Mafia Capitale. Il suo leader storico e fondatore è stato arrestato nel giugno 2015. Era uno di quelli che al telefono con i boss della solidarietà stabiliva come magnarsi Roma. E in un'altra intercettazione con Salvatore Buzzi parlava della spartizione dei profughi, 35 a voi e 35 a noi, che stai a dì, a Salvatore, non facciamo scherzi. Ora la domanda, figlia del buonsenso, è semplice. Ma se una cooperativa è sospettata di gestire profughi in modo non trasparente a Roma, come fa a continuare a vincere gare d'appalto in tutta Italia? Non dovrebbe essere esclusa, almeno temporaneamente sospesa? E se poi dimostrerà di essere innocente, per l'amor del cielo, porte spalancate dappertutto. Ma nel frattempo non si potrebbe soprassedere? Visto che parliamo di solidarietà, non sarebbe meglio lasciare l'incombenza a qualcun altro? Insomma, come fa la prefettura di Treviso a dare un punteggio tecnico altissimo all'offerta presentata dalla cooperativa che ha passato gli ultimi anni a tentare di magnarsi Roma? Ecco, queste domande se le pone, tutte legittime, abbastanza comprensibili, Mario Giordano nel titolo di prima pagina di Libero, continua pagina 3, paghiamo ancora la coop di Mafia Capitale. Vabbè, diciamo che se sull'Unione Europea con i migranti stiamo trattando anche per quel che riguarda i soldi. Sempre Beda Romano fa sapere che dall'Eurogruppo c'è un faro acceso sui conti italiani. Tra l'altro la Commissione Europea deciderà proprio oggi su una lettera di richiamo e su che cosa chiederà l'Italia, perché i nostri conti non sono a postissimo. Manovrina, tassina, tassettine, cosucce da sistemare, non lo so, non lo so. Come al solito sa tutto però Mauro Meazza, tassettine Mauro Meazza, che dici, che dici? Buongiorno. Buongiorno. Sei buongiorno. Risavito intanto? Sono risavito, non ero però, come dire, non avevo perso il senno. Ecco, ieri. Parlo in rima, no, questo non significa che io abbia perso il senno, ero solo ispirato, ma sto leggendo appunto anch'io sul Sole 24 Ore questo resoconto, sai, qui c'è sempre questi 0, di flessibilità sui quali si rischia di restare impigliati. Vabbè, nella stessa pagina però vedo anche che stiamo sollecitando come Ministri dell'Unione Europea Atene perché devono varare la riforma delle pensioni, altrimenti lì, come dire, parte un altro fronte di difficoltà sui conti. Se scorri sempre sulle 24 ore, mutui casa, hai presente la questione, sì. 18 rate, ecco. Ecco, allora oggi c'è il parere che va all'esame delle Camere, come correggere tra l'altro una delle modifiche, una maggiore trasparenza nei confronti dei sottoscrittori dei mutui. Tutto questo sul Sole 24 Ore di oggi. Hai preso, a proposito, il volume I tuoi soldi? Come no? Oh, la terza uscita del corso di educazione finanziaria. Ce l'hai, perché non è che poi me lo vieni a cercare. Sai che c'è solo oggi. Solo oggi. Con il Sole 24 Ore. Guarda, non ne ho una copia per te. Non venire a chiedermelo. Ti voglio anche segnalare, oggi è martedì naturalmente, e quindi troverai nelle pagine di norme e tributi, oppure tu. Condominio. Oh, condominio. Bravissimo, parliamo di valvole termostatiche. Però ti segnalo anche il maxi bonus, cioè una specie di maxi sconto, di forte sconto per le trasformazioni di contratti che provengono da garanzia giovani, sempre in norme e tributi. Oh, e poi visto che oggi mi pare sia l'8 marzo, giusto? Sì, è martedì perché c'è condominio ed è anche l'8 marzo, parliamo anche di donne nella società, nelle società quotate e non solo, nelle pagine iniziali del Sole 24 Ore. Ti segnalo sul sito il rapporto sul gap, sulla differenziale di genere in questi anni di crisi. Vediamo che cosa succederà giovedì, ti sei segnato giovedì? Giovedì, eccolo qua. Giovedì, perché giovedì parla Draghi, cioè Draghi deve decidere. In inglese, e quindi puoi anche stare attento alla nostra prima uscita di English 24. Mi raccomando, tutto ciò premesso, caro Alessandro, come al solito. Traffico! Alessandro Milan, lo strillone radiofonico! Però dai, ci stava bene lo strillone dell'informazione, dai, la rima baciata, caro ascoltatore, però ti ringrazio tantissimo. Al 349-238-6666 WhatsApp, anche se al momento a Radio 24 qui non va, ma adesso aggiorniamo tutto, mandate le vostre sigle, voi mandatele, poi adesso noi non le vediamo, ma tra un po' le vedremo e domani credo che andrà tutto a posto per quel che ci riguarda. Allora, le primarie. C'è questo video che è stato diffuso dal sito fanpage.it, un video nel quale si vedono delle persone che in cambio di un euro tra l'altro era la quota per votare alle primarie a Napoli, dicono vota, questo è l'euro per il voto, devi votare la femmina, la valente, no Bassolino, la femmina, cioè insomma l'ombra di un video sul voto di Napoli, titolo di pagina 14 il Corriere della Sera. Ci risiamo, scrive Simona Brandolini nell'articolo. Eserciti rappresentanti di lista per scongiurare manovre poco limpide, app antibrogli, settimane di inviti alla correttezza potrebbero non aver assortito gli effetti desiderati. A Napoli, lancette delle primarie è come se fossero tornate indietro al 2011. La linea della segreteria regionale del PD è episodi da condannare, ma non si può infangare una giornata di democrazia. Eppure questo video sta rimettendo tutto in discussione. A Napoli, Scampia, le immagini mostrano un tizio che invita un elettore a votare Valeria Valente. In un frame successivo consegna una moneta di un euro per la donazione al partito. Altro seggio, San Giovanni a Teduccio, Gennaro Cerro, capogruppo PD, intercetta alcuni conoscenti e, stando a quanto riportato dal sito, c'è uno scambio di denaro. Altro seggio, Area Nord, alcune persone distribuiscono monete ai votanti. e ancora altri scambi di denaro al seggio 61 a Scampia, al seggio 45 a San Giovanni a Teduccio, dove il consigliere comunale Tonino Borriello parrebbe elargire un euro a suoi conoscenti. Oh, ma ragazzi, ma un euro, cioè, perché il voto era un euro, quindi vieni a votare e ti do l'euro, ma ti pago il caffè. Mamma mia, ma io dico, ma vabbè. Ora, che succederà? Nulla. Nulla succederà, credo, nulla. Comunque anche Repubblica, un euro e vota Valente, il video scandalo a Napoli. A Roma c'è la lite sugli assenti, il Fatto Quotidiano dice addirittura a Roma hanno contato le schede bianche, pagina 3 del Fatto Quotidiano, Paola Zanca, 4.000 fantasmi, il boom di schede bianche. A 20 ore dalla chiusura dei gazebo, il partito dà i dati sull'affluenza, 47.000 votanti, i voti validi sono solo 43.000. Tra l'altro c'è da capire che succederà con Bassolino. Bassolino, Marco De Marco sul Corriere della Sera, pagina 14, racconta: Bassolino dice 226 voti, si è capito? 226, di questo stiamo parlando. Antonio Bassolino stenta a crederci, eppure è così. Se 226 elettori avessero scelto lui anziché la Valente, che ha vinto le primarie con 452 voti di scarto, la storia avrebbe preso tutta un'altra piega. E invece addio mito di Bassolino invincibile, del sindaco governatore che non ha mai perso un'elezione diretta. Addio illusione di aver trovato il Bernie Sanders napoletano capace di riaccendere antiche passioni. Ora Bassolino dice: ho una mia storia, non farò liste alternative, ma non esclude ricorsi dopo, soprattutto, questo video. Chissà. Intanto a Roma, la gara più pazza del mondo, beh, vede la vittoria di Giachetti alle primarie, Giachetti che fa una serie di interviste al Messaggero, a Repubblica, racconta un po' quello che succederà per la sua Roma se dovesse vincere lui. La notizia che però mi ha più colpito è il fatto che sono divisi anche nella sinistra più a sinistra, dove Stefano Fassina, che è il candidato della sinistra, diciamo, dopo essere uscito dal Partito Democratico, ora vede anche l'ex ministro della cultura Brai che si vuole candidare, e quindi sono divisi in questo senso, nel senso che forse ci sono due candidati anche lì, Stefano Fassina e Brai, ex ministro. E tra l'altro in un'intervista a Repubblica Giachetti richiama proprio a questo e parla del solito tafazzismo della sinistra. Speriamo di non essere tafazziani come abbiamo fatto in Liguria, perché uniti si può vincere, questo Giachetti. Vabbè, staremo a vedere. Allora, guardando agli esteri, oggi troverete sicuramente tante interviste. A che cosa? Ai due superstiti, soprattutto a Gino Pollicardo, che si è liberato insieme al compagno di prigionia in Libia. Ce l'ha fatta lui insieme a Filippo Calcagno, mentre, come sapete, sono morti due dei quattro che erano sequestrati. Oggi Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera racconta, pagina 8 e 9, la ricostruzione, lo strano tragitto, il rapimento, il ruolo forse dell'autista, il riscatto, tutte le incognite di questo sequestro. Ci sono anche varie interviste, lo stesso Pollicardo fa un paio di interviste, una la trovate sul Secolo XIX, pagina 5, una la trovate su Repubblica, pagina 6, dove si racconta l'ira di Pollicardo. Noi, abbandonati in mano ai rapitori, ci siamo liberati da soli. A chi attribuisce responsabilità? Beh, intanto dico, ci abbiamo abbandonato, non dico chi, ma mi sono fatto un'idea. A Roma ci hanno detto che in questi mesi hanno lavorato al nostro caso, non dico che non ci fossero i contatti, ma mi sembra impossibile che in 8 mesi non abbiano avuto il tempo di prenderli davvero. Parlo in generale, che sia la mia ditta, la Bonatti, che ha la responsabilità della sicurezza, che sia l'ENI con la quale la mia società ha fatto il contratto, e se il primo ministro si chiede cosa ci facevano quattro italiani nella Libia in guerra, non mi va bene. E però voi siete partiti, chiede Repubblica. Io devo portare il pane alla mia famiglia, ho due figli. E se la ditta ti dice che devi andare in Libia, non puoi rispondere di no. Se scegli di stare 60 giorni lì e 20 a casa, c'è una ragione, ma sei tutelato da un contratto. L'azienda si fa garante della mia sicurezza. Insomma, pensavate di essere al sicuro, ma nessuno promette nulla. Sono andato giù per lavorare. Insomma, fa capire che si è sentito proprio abbandonato in qualche modo Pollicardo insieme a Calcagno, e poi racconta: ci siamo davvero liberati da soli. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oh, ma insistono sul secolo XIX. Già avevamo raccontato l'annuncio della prima vendemmia di Natalia Grosvenor, duchessa di Westminster a Portofino. E adesso fanno il resoconto della vendemmia. Eccola qua, Portofino, eccolo il vino della duchessa che si presenta con i suoi ospiti in modo easy, jeans skinny sulle gambe da fenicottero e sneaker bluette per muoversi disinvolta con giubbino e zero gioielli. Ma chi se ne frega!